giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Apre Maria Colluto cittadino per onorare la memoria di Christian Molnar, il cui corpo è stato recuperato dopo 23 giorni di ricerche nel Natisone, teatro della tragedia costata la vita anche alle due ragazze che erano con lui lo scorso 31 maggio. Intanto prosegue l'indagine aperta per omicidio colposo che resta contro ignoti. Dopo i recenti gravi episodi di violenza con le due aggressioni accadute a Udine nel fine settimana, sale la preoccupazione dei residenti e per fare il punto della situazione si è riunita questa mattina in prefettura il Comitato per la Sicurezza Pubblica. Allo studio una nuova strategia per garantire più controllo del territorio. Tra maggioranza e opposizione, toni accesi nell'aula del Consiglio regionale, dove da questa mattina la quarta commissione è riunita per le audizioni sul progetto di cabinovia da costruire a Trieste. Presenti anche il sindaco Roberto Di Piazza e il comitato che si batte contro la realizzazione dell'opera. Le raffiche di bora con il rimescolamento delle acque in superficie stanno facendo regredire, anche se ancora non del tutto, l'assedio delle mucillagini che avevano invaso il Golfo di Trieste fino a Grado e ad altre aree del litorale della regione, creando disagi ai bagnanti e ai titolari degli stabilimenti balneari. Gli adolescenti con problemi di tossicodipendenza sono in aumento costante in regione, lo mostrano i dati, ma anche l'esperienza di chi lavora nell'assistenza ai giovani con disagio, come la comunità di San Martino al Campo a Trieste. Realizzato con acrilici, matite e carboncini, il quadro realizzato dall'artista Arturo D'Ascanio è stato venduto all'asta e ricavato è stato donato a favore del GOAP, il centro antiviolenza attivo sul territorio di Trieste, con 5 punti. L'iniziativa è stata presentata poco fa dal comune. Oltre frontiera, un libro scritto da Giuseppe Colasanto, funzionario di polizia esperto in cooperazione internazionale, che ha ricoperto fra i vari ruoli anche quello di dirigente del settore di polizia di frontiera a Trieste, un diario appassionato che racconta di missioni, esperienze, incontri con popoli e persone da Lampedusa appunto a Trieste, dalla Libia alla rotta balcanica. Le 12:32 minuti e 30 secondi in questo istante, ancora un buongiorno da Giorgio Bearz e Lorenzo Galinzoni in studio a condurre questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia di lunedì 24 giugno. Oggi a Premariacco il lutto cittadino proclamato dal sindaco Michele De Sabata per onorare la memoria di Christian Molnar, il giovane di 25 anni travolto e ucciso dalla piena del fiume Natisone assieme ad altre due ragazze il 31 maggio scorso, il cui corpo è stato ritrovato solo ieri dopo 23 giorni di ricerche assidue. L'intera comunità si stringe in queste ore attorno al fratello di Christian, Petro Radu, prima del rientro della salma in Romania, dove saranno celebrate le esequie. L'indagine, intanto, che è stata aperta per omicidio colposo, resta contro ignoti. Bandiere a mezz'asta e listate a lutto al comune di Premariacco. Fino a quando non l'hanno trovato è stato per tutti un incubo. Ogni volta che partiva l'elicottero, comunque si vedeva qualche movimento in più, un po' di ansia. Ieri, dopo il recupero di Christian in una forra piena d'acqua del Natisone, Petro Radu, il fratello, ha effettuato il riconoscimento in ospedale a Udine. Non è prevista autopsia. Avvocato Gaetano Laghi. È stato immediatamente liberato il corpo, abbiamo avuto il nulla osta, potrà essere restituito subito alla famiglia per le esequie. 900 i vigili del fuoco di diversi comandi d'Italia impegnati nei 24 giorni di ricerche. Giorgio Basile, comandante dei vigili del fuoco di Udine. Il livello dell'acqua si era abbassato in maniera importante, molto di più rispetto ai giorni precedenti. Si è pensato di cogliere questa occasione. Intanto il fascicolo aperto in procura per omicidio colposo è ancora a carico di ignoti. Diverse le persone informate sui fatti sentite finora. Si procederà a ulteriori perizie tecniche sui tempi di percorrenza da parte dei soccorritori e sullo stato dei luoghi in cui è avvenuta la tragedia. Premariacco, Lillo Montalto Monella, TGR, Friuli Venezia Giulia. Dopo i recenti gravi episodi di violenza con le due aggressioni accadute a Udine nel fine settimana, sale la preoccupazione dei residenti. Per fare il punto della situazione si è riunita questa mattina in prefettura il Comitato per la Sicurezza Pubblica. Allo studio una nuova strategia per garantire più controllo sul territorio. Prevale il pessimismo tra i medici sulle condizioni di Shinpeto Minaga, il 56enne giapponese ricoverato in gravissime condizioni in terapia intensiva all'ospedale di Udine. Venerdì notte, invitando alcuni giovani alla calma a seguito di una rissa, ha ricevuto un pugno che lo ha steso. La caduta rovinosa gli ha provocato fratture multiple al cranio e un lungo arresto cardiaco. Si teme per le funzioni neurologiche che potrebbero essere irrimediabilmente compromesse. In giornata è atteso l'arrivo dei suoi familiari dal Giappone. Con loro i medici decideranno il da farsi. Il primo elettroencefalogramma comunque non sarà prima di domani. Sono 5 gli arrestati per rissa, da una parte 2 ucraini residenti in Abruzzo, dall'altra 3 ragazzi provenienti da Treviso. Uno di loro 3 avrebbe sferrato il pugno che potrebbe costargli l'accusa di omicidio preterintenzionale nel caso in cui Tominaga non dovesse farcela. Intanto si cerca ancora il sudamericano che sabato sera avrebbe accoltellato un 39enne venezuelano in Borgo Stazione a Udine. In questo caso l'uomo non appare in pericolo di vita. Una spirale di violenza unita a una recrudescenza di furti in casa che preoccupa i cittadini, che si stanno organizzando con petizioni anche per dare una risposta a loro. È in corso in questi minuti un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza in prefettura, alla presenza delle forze di polizia, dell'esercito e del sindaco Alberto Felice De Toni, accompagnato da 3 assessori della giunta, Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. Tra maggioranza e opposizione ci sono stati toni accesi questa mattina nell'aula del Consiglio regionale, dove la quarta commissione è riunita per le audizioni sul contestato progetto di cabinovia da costruire a Trieste. È presente ai lavori anche il sindaco Roberto Di Piazza e il comitato che si batte contro la realizzazione dell'opera. Con un ritardo di 108 giorni finalmente ci ritroviamo in quest'aula e guarda caso succede proprio in un giorno di bora sostenuta, un giorno in cui Lovovia per ovvi motivi sarebbe stata ferma. Non fa sconti Giulia Massolino, consigliera regionale del Patto per l'Autonomia Civica FVG, che lo scorso 20 febbraio aveva richiesto questa audizione in quarta commissione permanente in merito al progetto della cabinovia Trieste-Porto Vecchio-Carso, audizione che, dice Massolino, secondo i tempi tecnici si sarebbe dovuta tenere già a marzo, invece è slittata a fine maggio, quando l'assessore Scoccimarro la fece comunque saltare per impegni istituzionali. Presenti in aula del Consiglio regionale nell'arco alto destinato al pubblico, cittadini di Trieste, alcuni indossano la maglietta azzurra no o Vovia. I primi a intervenire sono stati l'assessore Fabio Scoccimarro, che ha difeso il progetto dichiarando che ogni posizione contro è solo ideologica, e lo stesso sindaco di Trieste, che metà audizione è uscito dall'aula, ha lasciato la commissione offeso per l'intervento di una rappresentante dei residenti del comitato no Vovia, che aveva dichiarato questa amministrazione lavora senza sentire pareri in modo arrogante. Se mi danno dell'arrogante io me ne vado, ha detto il sindaco di Piazza, che insiste nell'immaginare un progetto che collega mare e Carso. Dalla cabinovia nelle giornate limpide vedrete Pirano, come Grado e Lignano, sarà un'opera stupenda, insiste. Di tutt'altro segno gli esperti del comitato scientifico nato attorno al comitato nuovo via e fatto di tecnici con competenze diverse, spesso persone in pensione provenienti da enti di ricerca del territorio. La cabinovia è un progetto illegittimo, inutile, insostenibile e impattante dal punto di vista economico, porterà debito perché questi sono soldi prestati dall'Europa, ricordiamocelo, ha detto Gabriella Robba, architetto ed esperta di sviluppo urbano sostenibile, ricordando le 10.000 firme raccolte contro Lovovia in poco tempo e depositate al Parlamento europeo. Trieste, Anna Vitaliani, TGR Friuli Venezia Giulia. A Pordenone si parla di sanità e liste d'attesa, un'attesa infinita. Perché la regione non applica ancora la sua legge del 2009? Questo è il tema dell'incontro che è introdotto da Furio Onsel, consigliere regionale di Open Sinistra FVG. Partecipano tra gli altri Maurizio Marcon, segretario provinciale della CGIL, Michele Negro del Comitato Salute Pubblica Bene Comune e Adelina Zanella del Comitato del San Vitese Salute Pubblica. All'auditorium della regione in via Roma a Pordenone, ore 17.45. Ed ora uno sguardo al tempo, il cielo è variabile sulla costa, nuvoloso sul resto della regione. Queste le temperature registrate poco fa. Trieste 24 gradi, il mare è molto mosso con temperatura di 19 gradi, il vento soffia a 60 km orari da est-nord-est, bora con raffiche che nella giornata hanno raggiunto i 100 km orari. A Pordenone 27 gradi e 5 decimi, a Gorizia e Udine 27 gradi, a Tolmezzo 23 gradi, a Tarvisio e Forni di Sopra 19 19, a Piancavallo 17, a Sappada 16 gradi e 5 decimi, sul Monte Zoncolan 13 gradi e mezzo e sulla costa Lignano 27 gradi e 5 decimi, a Grado 26 gradi e mezzo e la temperatura del mare in queste due località balneari è di 24 gradi. Vediamo le previsioni del meteo a cura dell'ARPA Friuli Venezia Giulia. Oggi pomeriggio il cielo sarà variabile, sulla costa soffierà ancora bora forte con raffiche che nella zona di Trieste potranno sfiorare ancora i 100 km orari, bora moderata invece in pianura più sostenuta verso est e sulla bassa. Su tutte le zone non è da escludere la possibilità di qualche breve pioggia. Per domani si prevede cielo variabile con rovesci e temporali sparsi, più probabili dal pomeriggio sera, che potranno portare piogge solo localmente, anche abbondanti. Proprio a causa delle condizioni di forte bora, il comune di Trieste per la giornata di oggi ha chiuso i giardini pubblici comunali. Intenso il lavoro dei vigili del fuoco, chiamati a una ventina di interventi. Ma il vento che soffia da nord-est ha portato anche a una forte regressione del fenomeno delle mucillagini presenti da giorni nel Golfo di Trieste. Sentiamo Paola Del Negro, direttrice generale dell'OGS di Trieste. La situazione è fortemente migliorata, nel senso che la bora ha consentito un rimescolamento della colonna d'acqua e quindi ha degradato questo materiale mucillaginoso presente in superficie. Teniamo d'occhio l'andamento nelle prossime ore e nei prossimi giorni. Che cosa occorre che il vento faccia? Certamente la allontana riportandola verso il largo, però è come dire poi spostiamo il problema a qualcun altro. L'effetto vero è quello del rimescolamento della colonna d'acqua e quindi queste mucillagini, andando su e giù, diciamo, lungo la colonna d'acqua, si degradano naturalmente. Questo non può causare problemi soprattutto di ossigenazione del fondale? Se scendono per effetto della bora, no, perché prima di arrivare sul fondo sono degradate. È improbabile che scendano così come un tappeto, diciamo, a ostruire, in quel caso farebbe veramente male il fondale, ma vengono degradate lungo il percorso in colonna d'acqua e pertanto quando arrivano sul fondo sono piccoli fiocchi tutt'al più. Noi appunto parliamo di questa mucillagine, però senza mai entrare nel dettaglio. Che cosa è esattamente? Sono aggregazioni di sostanza organica che è normalmente presente in mare, la cui produzione è prevalentemente di tipo vegetale, cioè le microalghe fanno la fotosintesi e una parte del prodotto fotosintetizzato, che è costituito da materiale organico, viene buttato all'esterno della cellula e in alcune condizioni particolari, meteo, climatiche, ambientali, questa sostanza organica si aggrega a formare queste mucillagini. E qual è stata allora la condizione meteoclimatica che ne ha consentito la proliferazione? La stratificazione della colonna d'acqua determinata dagli apporti di acqua dolce che si sono stratificati in superficie e dall'inizio del riscaldamento della colonna d'acqua che l'ha stratificata in relazione alle temperature più alte dei giorni passati. Parliamo ora delle concessioni demaniali per le spiagge dopo il recente decreto del Ministero che ne disciplina la materia e per fare il punto della situazione in regione questa mattina si è tenuta una riunione a Udine. L'assessore regionale Sebastiano Calari giudica insufficienti i servizi offerti dai concessionari in molte spiagge del Friuli Venezia Giulia. È il punto di partenza da cui prendono corpo le linee guida illustrate a comuni e rappresentanti dei concessionari balneari in vista dei nuovi bandi per le spiagge in scadenza alla fine del 2024. Ammonta a 5.600.000 euro il canone complessivo incassato dalla regione per le varie concessioni. Non è molto, ma l'importante è migliorare l'offerta turistica. Nei bandi l'80% del punteggio verrà attribuito alla qualità dei servizi offerti. Sui ristori, Callari spiega che deve essere lo Stato a legiferare. Questione incameramenti dei beni. È previsto dalla legge che i beni inamovibili su cui vengono fatti degli investimenti, alla fine della concessione questi diventino di proprietà dello Stato. Le concessioni, è stato sottolineato, hanno sempre una durata con tempo di ammortamento previsto, mentre il diritto di prelazione si applica soltanto ad alcune fattispecie previste, l'esempio quello di società che fanno attività rivolte a disabili. La durata delle concessioni non sarà superiore ai 15 anni, mentre di 6 anni il periodo in caso di assenza di investimenti. In caso di partenariato pubblico-privato, invece, la Regione può dare in concessione gratuita se si tratta di investimenti in aree degradate. Sebastiano Franco, TGR, Friuli Venezia Giulia. Proseguono i controlli alla circolazione stradale svolti dai carabinieri della compagnia di Aurisina. In particolare, nello scorso fine settimana sono stati effettuati numerosi test agli automobilisti per accertare l'eventuale abuso di alcolici. 5 le patenti ritirate ed altrettante persone trovate alla guida con tasso alcolemico superiore a quello consentito, tutti residenti a Trieste e provincia, dell'età tra i 25 e i 57 anni, che si sono visti ritirare la patente di guida. Un problema con motivazioni complesse è quello del consumo di droga da parte dei ragazzi, un fenomeno in crescita al quale le famiglie devono prestare attenzione, soprattutto offrendo ascolto ai figli, come suggerisce l'esperienza della comunità di San Martino al Campo di Trieste, ospite questa mattina della nostra rubrica. Buongiorno Regione. Gli adolescenti con problemi di tossicodipendenza sono in aumento costante in regione. Lo mostrano i dati, ma anche l'esperienza di chi lavora nell'assistenza ai giovani con disagio, come la comunità di San Martino al Campo di Trieste. I motivi che spingono i giovani a iniziare a far uso di droga sono numerosi e complessi, così come lo è il periodo dell'adolescenza. Francesca Parisi, responsabile dell'area giovani della comunità. Sicuramente c'è un discorso di emulare un gruppo magari di pari in cui si vuole entrare. Poi c'è sicuramente un discorso di grande solitudine, nel senso che il ragazzo che ha bisogno di fare qualcosa, magari anche non contro, ma insomma che non sente proprio suo, per entrare in un gruppo, vuol dire che si sente molto solo, che ha bisogno di molto riconoscimento. Poi c'è anche il problema che spesso questi ragazzi non hanno alternative, non hanno niente da fare, hanno molto tempo libero, molto tempo che non sanno come usare. Per le famiglie è difficile anche riconoscere il problema. C'è differenza tra un adolescente che nel suo periodo in cui ha bisogno magari di momenti di solitudine, in un adolescente che invece comincia a rifiutare questo tipo di dialogo, spesso comincia a mangiare di meno, non mangia con i genitori, comincia ad allontanarsi sempre di più da casa, non dice dove va, e anche la questione economica, chiede soldi. E allora cosa fare in questi casi? Cercare di non giudicarli, perché davanti al giudizio i ragazzi si allontanano. Invece questi qua sono ragazzi che hanno bisogno di sapere che possono tornare da qualcuno anche avendo fatto un errore. Livia Liberatore, TGR Friuli Venezia Giulia. Realizzato con acrilici, matite e carboncini, il quadro dell'artista Arturo Dascanio è stato venduto all'asta e il ricavato donato a favore del GOAP, centro antiviolenza attivo sul territorio, con 5 punti. L'iniziativa è stata presentata nella mattina nella sala giunta del comune di Trieste. Raffigura un viso femminile che guarda in alto, idealmente rivolto verso un futuro migliore, il quadro intitolato Donna Libera, che è stato dipinto dall'artista Arturo Dascanio e che è stato venduto all'asta, il cui ricavato è stato donato ora al centro antiviolenza GOAP di Trieste. Presentata questa mattina a Trieste nella sala giunta del comune, l'opera a colori, realizzata con acrilico, carboncini e matita, si differenzia dalla produzione di Dascanio, noto per dipingere sempre figure femminili di spalle anziché in posizione frontale, come nell'opera che l'artista ha deciso di destinare al supporto delle numerose iniziative concretizzate dal GOAP, una realtà attiva in regione dal 1999 e impegnata nel fornire una pluralità di servizi a favore delle donne vittime di violenza domestica. L'asta, che si è tenuta un paio di settimane fa, è fruttata circa 800 euro che ora potranno confluire nei 5 centri presenti sul territorio che sono gestiti dal COAP e in cui le donne che subiscono violenza fisica, ma anche psicologica, sessuale oppure economica, possono uscire dall'ombra per trovare non solo un centro d'ascolto, ma anche accedere a un'analisi della situazione, ricevere informazioni di carattere legale, frequentare percorsi di autostima e gruppi di autoaiuto e avvalersi di un'intermediazione con servizi pubblici e privati, oltre che all'affiancamento nel corso di processi legali. Trieste, Maria Spezia, TGR, Friuli Venezia Giulia. Confindustria Alto Adriatico e Federazione Gomma Plastica, che rappresenta in Confindustria due settori industriali che in Italia contano oltre 150.000 addetti, hanno sottoscritto un'intesa per promuovere l'adesione delle aziende del comparto a entrambe le associazioni per valorizzarne le capacità di proposta, coniugando presenza e visione. L'accordo, è stato detto dalle parti, crea le basi per una sinergica azione di rappresentanza degli interessi delle aziende ed è accompagnata anche da condizioni favorevoli per incentivarne l'adesione. Filippo Meroi, presidente del gruppo Tecnoedili di Confcommercio Provinciale di Udine, è stato cooptato nel Consiglio Nazionale della Federcomated, federazione costituita nel 1983 che rappresenta oltre 9.000 imprese distributrici attraverso le ASCOMED, vale a dire le associazioni provinciali di commercianti di materiali edili. Complessivamente il giro d'affari di queste imprese vale 15 miliardi di euro. E alle 12.50 minuti apriamo la pagina degli spettacoli. Un overdose d'amore per Zucchero che si è esibito ieri sera allo Stadio Friuli di Udine davanti a oltre 15.000 spettatori provenienti anche da Austria, Germania, Slovenia e Croazia nell'unica data a nord-est del tour del cantautore emiliano. Lo spirito nel buio che illumina la serata di grande musica allo Stadio Friuli è quello di Zucchero Fornaciari. Che accende spirito. Il pubblico è quello dei grandi eventi, 15.000 fan in delirio, molti provenienti anche da Austria, Germania, Slovenia e Croazia. Udine è stata scelta infatti come unica data a nord-est del tour del cantautore emiliano, tour intitolato Overdose d'amore. A 35 anni dall'uscita, correva l'anno 1989, dell'album Oro, Incenso e Birra, che con oltre 8 milioni di copie vendute a livello internazionale incoronò Zucchero re del pop rock e del blues italiani. In scaletta anche grandi successi come Baila, Diamante, Diavolo in me, Di mare e Sol mama. Oltre alla Miserere, in duetto virtuale con Luciano Pavarotti, uno dei tanti brani nati dalla collaborazione di Zucchero con giganti della musica virtuale, da Joe Cocker a Ray Charles, da Iggy Pop a Sting e Paul Young. 47 gruppi musicali, dal duo al quartetto per pianoforte archi, in rappresentanza di 27 paesi del mondo, sono stati ammessi a partecipare alla prima fase del Premio Trio di Trieste. Le selezioni saranno aperte al pubblico e trasmesse via streaming. Le tre eliminatorie definiranno passo dopo passo i tre finalisti che, l'11 settembre, al Teatro Miela terranno il concerto finale previsto alle 20.30. Il Conservatorio Tartini di Trieste sarà guidato nel triennio 2024-27 dal direttore uscente Sandro Torlontano per un secondo mandato ufficializzato da una elezione a vastissima maggioranza dei votanti acquisita al primo scrutinio. Il corpo votante era composto dai docenti del conservatorio in servizio nell'anno accademico 2023-24. E fra i risultati concreti dell'ultimo triennio vi è quello di aver attivato per la prima volta il master biennale di secondo livello di pianoforte, un percorso altamente professionalizzante, ha ricordato lo stesso Torlontano, che estende al terzo livello la formazione proposta, offrendo competenze avanzate nel campo dell'esecuzione musicale solistica e quindi schiudendo a giovani musicisti prospettive occupazionali legate alla carriera del pianista professionista. Padel di alto livello nel fine settimana all'Eurosporting di Cordenons, dove si è disputato un torneo inserito nel calendario Cupra FIP Tour con montepremi di $12.500, una settantina le coppie in gara in arrivo da ogni parte del mondo. La vittoria nel torneo maschile è andata agli svedesi Olsson e Axelsson, che hanno superato in due set gli spagnoli Santiago e Maldona. 6-3-6-4 il punteggio finale di una partita che ha dimostrato la maggior solidità degli iberici e che sostanzialmente non è mai stata in discussione. Rivincita della Spagna tra le donne. In finale Diaz e Treglia hanno battuto in finale la britannica Gibson e l'olandese Betts. Punteggio anche più netto in questo caso, 6-3-6-1 per la coppia vincitrice, complice anche un piccolo problema fisico della giocatrice olandese. Diaz e Treglia in semifinale avevano superato le azzurre Aima e Ciabattoni con un doppio 6-1. Oltre frontiera è un libro scritto da Giuseppe Colasanto, funzionario di polizia, esperto di cooperazione internazionale, che ha ricoperto fra i vari ruoli anche quello di dirigente del settore di polizia di frontiera a Trieste. Un diario appassionato che racconta di missioni, esperienze, incontri di popoli e persone da Lampedusa appunto a Trieste, dalla Libia alla rotta balcanica. L'autore del libro per anni ha camminato sui confini, frontiere che, se anche cerchi di ignorarle, vengono sempre a bussarti alla porta tra guerre, migrazioni e terrorismo. L'appuntamento questo pomeriggio alle 17.30 presso la Sala Unicusano di Trieste è promosso dal SAP, il sindacato autonomo di polizia. Sentiamo Colasanto. Dunque, io ho messo insieme il mio vissuto personale e professionale di funzionario di polizia che, diciamo, ha camminato sui confini. qui da Ventimiglia, Lampedusa, Trieste e nel corso delle mie missioni all'estero tra Balcani, Libia e adesso Medio Oriente. E per cui nel libro mi definisco un viaggiatore stanziale, proprio perché ho avuto l'opportunità di vivere e operare sul campo al di là della frontiera, incontrando persone, popoli, situazioni, lingue, modi di pensare diversi dai nostri. Per cui penso sia importante non depauperare queste conoscenze, mettere a disposizione di un lettore curioso, così come di giovani che parlano le lingue e vogliono affrontare esperienze nuove, in particolare nell'ambito della cooperazione internazionale, così come dell'immigrazione, e voler capire cosa accade realmente sul campo quando ci si trova in teatri operativi dall'altra parte. C'è un episodio particolare che lei si porta dietro da questa esperienza? Per cui gli episodi che ho vissuto, che ho affrontato, in particolare sulla rotta balcanica, posso ricordare questo: mi trovavo a Sarajevo, quindi nella mia prima missione, e con gli amici sarajevesi ogni tanto si andava a bere una birra, e questi, pur essendo musulmani, mi dicevano: noi la birra qui a Sarajevo, in Bosnia, l'abbiamo sempre bevuta perché è un modo di stare insieme, è un modo di dialogare, e adesso non lo possiamo più fare. In Bascascia, quindi in tutta l'area del vecchio mercato turco, è vietata la birra, ci sono, la prima volta, cosa che noi non vedevamo, gente con la barba lunga, tutte le donne con il velo. Ecco, questo è un episodio che mi è rimasto in mente di come le cose cambiano, e cambiano anche velocemente, anche vicino a noi. Questo è un episodio che risale a pochi anni fa, tornando a Sarajevo, e ho trovato una Sarajevo molto diversa da quello che avevo vissuto io invece post-conflict, subito dopo l'assedio che aveva dovuto subire la città. E quella Sarajevo che ricordiamo noi, insomma, quel laboratorio di multiculturalità, pian piano sta svanendo. Alcuni appuntamenti prima di chiudere: a Udine, per l'anteprima della rassegna Udine Jazz, stasera c'è Keanu Reeves che si esibisce al Castello di Udine. L'attore hollywoodiano, che ha raggiunto fama mondiale come protagonista della saga di Matrix, si esibirà al basso con la sua rock band Dogstar, insieme a Brett Domrose alla chitarra e a Robert Melhouse alla batteria. Il concerto è in Castello alle 21.30. Stasera nel giardino del Museo Sartorio a Trieste va in scena la commedia di William Shakespeare, Sogno di una notte di mezz'estate, in lingua slovena, accompagnata da performance di sand painting, ore 21. E sempre a Trieste, per il lunedì dello Schmidl, l'ultimo evento collaterale alla mostra dedicata ai 30 anni di vita dell'orchestra Esio, Sinfonia, il suono dell'Europa, alle 17.30 alla Sala Baslen di Palazzo Gopcevic. Ed è tutto per questa seconda edizione del giornale radio del Friuli Venezia Giulia, che è stata redatta e condotta da Lorenzo Gherinzoni e Giorgio Bearz, con la collaborazione tecnica di Roberto Cavallari e di Walter Vidonis. Ha collaborato in redazione Manuel Bussani. Prossimo appuntamento con il GR alle 15. Grazie dell'attenzione e buon proseguimento di giornata. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.